Qualità, il filo rosso del successo aziendale, il caso di Mutti, l'eccellenza italiana del pomodoro. Quando si parla di eccellenza italiana nel settore alimentare è impossibile non pensare a Mutti. Questa storica azienda di Parma, specializzata nella produzione di conserve di pomodoro, ha saputo distinguersi nel tempo per una qualità senza compromessi. La sua storia è una lezione preziosa su come la dedizione alla qualità possa trasformare un prodotto comune in un simbolo di fiducia e valore per i consumatori di tutto il mondo. La sfida: trasformare il pomodoro in oro rosso. Negli anni 90 il mercato delle conserve di pomodoro in Italia era saturo e dominato da logiche di prezzo. Molte aziende puntavano a ridurre i costi, sacrificando spesso la qualità del prodotto. In questo contesto, Mutti prese una decisione controcorrente: non scendere mai a compromessi sulla qualità, nemmeno a costo di sacrificare volumi o margini a breve termine. La soluzione: qualità come valore guida. Mutti ha costruito il suo successo su una serie di principi fondamentali che riflettono il suo impegno verso l'eccellenza. Filiera controllata e certificata. Mutti lavora esclusivamente con fornitori italiani selezionati, garantendo una tracciabilità completa e una qualità costante. Ogni pomodoro è raccolto al massimo della maturazione, con tempi di lavorazione rapidissimi, per preservarne la freschezza. Innovazione tecnologica. Pur essendo radicata nella tradizione, l'azienda ha investito in tecnologie all'avanguardia per ottimizzare i processi di trasformazione e garantire standard igienici elevati. Collaborazione con gli agricoltori. Mutti ha instaurato un rapporto di fiducia e sostegno con i propri fornitori, premiando i coltivatori che raggiungono i migliori standard di qualità. Questo approccio ha creato una vera e propria comunità di eccellenza. Il risultato: un successo internazionale. Grazie a queste scelte, Mutti è diventato un punto di riferimento nel settore, conquistando mercati internazionali e trasformando il pomodoro in un simbolo di alta qualità. Oggi Mutti esporta in oltre 90 paesi e continua a crescere, mantenendo la leadership in Italia. Lezioni di leadership e cultura aziendale. La storia di Mutti è una testimonianza di come una cultura aziendale solida e coerente possa fare la differenza. 1. Qualità come pilastro strategico. Puntare sull'eccellenza anche in mercati competitivi permette di costruire una reputazione duratura. 2. Investire in rapporti umani. Collaborare strettamente con i fornitori e partner rafforza la filiera e garantisce risultati superiori. 3. Innovazione e tradizione. Mutti ha dimostrato che l'innovazione tecnologica non è in conflitto con il rispetto per le tradizioni, ma ne può esaltare i valori. Un messaggio universale: la storia di Mutti non riguarda solo il pomodoro, è una lezione su come la qualità, intesa come valore profondo, possa trasformare qualsiasi azienda in un simbolo di eccellenza. E voi, come integrate la qualità nella vostra attività? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti.